Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. All'inizio delle scuole medie, la maestra di inglese, molto autoritaria, mi riprende in modo energico perché disturbo la lezione. In seguito a questo, in pochi giorni, il mio rifiuto di parlare è totale. La balbuzie si impadronisce di me in modo così repentino da lasciare inermi tutti. Me compreso. Ciao, mi chiamo Fabio Stacchiotti, ho 42 anni, abito a Rubano in provincia di Padova, sono sposato con Diana e un bimbo di 5 anni che si chiama Enrico. I confini del linguaggio sono i confini del mio mondo. Oggi iniziamo così, come se fossi Gianluca Nicoletti, con una citazione altissima. Questa è una frase di Wittgenstein, che mi ha suggerito Tiziano prima di entrare in studio, che racconta e che è una sorta di riassunto del tema principale di oggi, di questa puntata intera. Io sono uno che parla per 45 minuti di fila tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. E quando ho letto il messaggio di Fabio, perdonatemi il messaggio, il racconto di Fabio, ho capito due cose. Primo, che non è così normale per tutte le persone immaginare di poter parlare per 45 minuti di fila tutti i giorni, e non solo perché non si fa questo mestiere. Secondo, che questo programma ha senso soprattutto quando le storie che arrivano non devono essere scritte particolarmente bene. Questa cosa è una cosa che ripeto sempre, che non ci interessa lo stile, non è un concorso letterario queste, ma quando le storie che arrivano è come se fossero un capitolo del diario molto intimo della persona che ci scrive la storia. Fabio ha veramente fatto questo, cioè ha preso un pezzo della sua vita e ce l'ha regalato, e ci ha regalato dei particolari talmente personali, talmente intimi, che in alcuni momenti c'è quasi una sorta di pudore nel leggerli. E la sua storia è esattamente questa, è la storia di un ragazzo che per gran parte, perdonatemi, che per gran parte della sua vita balbetta e a un certo punto smette. Smette grazie ad una tecnica, poi... glielo chiederò più tardi, perché gli ho già parlato al telefono e lui mi ha spiegato che questa tecnica è una tecnica molto particolare che devi sempre tenere come nell'angolo della mente quando parli, e a un certo punto però riesci quasi a dimenticarla e a dire le cose dritto, in fila, come se niente fosse. Però è una cosa molto interessante, quindi ne parlo più tardi con lui. Oggi non c'è una vera e propria domanda, oggi però vorrei... mi piacerebbe sapere se c'è qualcuno che ha avuto problemi con la parola, qualunque essi fossero, dal balbettare a non riuscire a parlare in alcune situazioni, semplicemente di condividerlo. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook, è sempre quello lì, che è Voi Siete Qui, Radio 24. Se avete avuto dei problemi, se li avete bypassati, se siete andati oltre ve ne siete liberati. Mi scrive sul profilo Facebook del programma Andrea, che mi dice che praticamente ha una storia simile a quella di Fabio. In seconda media, durante un'interrogazione di storia dell'arte, non riuscendo a completare nessuna frase perché quando mi emoziono balbetto, la professoressa ha pensato bene di rimandarmi a sedere al banco con un bel 4, perché secondo lei la mia balbuzia era causata dal fatto che non avessi studiato la sua materia. Questo è un caso simile proprio a quello di Fabio, perché si ha a che fare con la scuola. Il problema però del trattenere la parola, cioè del tenersi per sé le parole, viene fuori non solo a scuola ma in tutte le situazioni in cui emotivamente si ha una temperatura particolarmente alta, e quindi uno non riesce a dire le cose come vorrebbe dirle. Questa è una cosa che succede normalmente a tutti quanti, credo, non solo ai balbuzienti. 349-238-6666, oppure Radio 24, Voi Siete Qui, Radio 24, il profilo Facebook. Valgono anche le mail, altrimenti, che Voi Siete Qui, chiocciola, radio24.it. Questa la ridico, Tiziano. I confini del linguaggio sono i confini del mio mondo. Questa è la storia di Fabio. Balbuziente. Questa è la condizione che ho portato con me per 20 anni della mia vita, quasi la metà, dal momento che ne ho 41. Ho avuto un'infanzia tranquilla, serena e felice, con una famiglia presente che mi ha voluto bene. Sono sempre stato un bambino vivace, scaltro, che si faceva rispettare. Non ricordo fatti traumatici che possano aver influito sulla mia condizione futura. All'inizio delle scuole medie, però, la maestra di inglese, molto autoritaria, mi riprende in modo energico perché disturbo la lezione. In seguito a questo, in pochi giorni, il mio rifiuto di parlare è totale. La balbuzia si impadronisce di me in modo così repentino da lasciare inermi tutti, me compreso. Ricordo che la mia professoressa di inglese era molto autoritaria, un po' bruttina e anche vecchia. Ogni volta che volava una mosca in classe, era sempre molto pronta a riprenderci in modo molto vigoroso. Cominciano così anni strani. La parola non viene, nonostante psicologi, logopedisti e chi più ne ha più ne metta. I coetanei e i compagni di scuola stranamente non mi sfottono. E questo è per me un motivo in più per non affrontare il mio problema e non discuterne con nessuno. Nonostante tutto, la mia vita sociale è normale. Mi diplomo come ragioniere, comincio a lavorare, faccio viaggi. Ho rapporti normali con l'altro sesso. Ho amici e genitori che mi vogliono bene. Ma solo dopo, più tardi, mi rendo conto che in realtà all'epoca ero molle, evitavo le discussioni. Dicevo sempre di sì. Non prendevo mai una posizione su nulla. Evitavo sistematicamente problemi. Insomma, mi rendo conto che sono stato diverso dai miei coetanei. Fare per 7 anni le interrogazioni orali scrivendo, ad esempio, o comprare un biglietto del treno alle biglietterie automatiche perché davanti al bigliettaio non esce una parola, o non sapere dire pronto al telefono. Sapete che per i balbuzienti si dice che il telefono è una croce. E il tutto ovviamente condito con sudori freddi, rossori al viso, tremolii generali. Ecco, tutto questo ti porta in un vortice da cui uscirne è difficile. Nel 1996, a 26 anni, mi innamoro di una ragazza carina che mi ama ma approfitta della mia condizione per fare quello che vuole. D'altra parte io di problemi non ne creo mai. Le faccio passare tutto, mentre lei, ad ogni mio errore, mi copre di insulti. Rapidamente il mio passato fatto di amici in giro per l'Italia, di sport, viene accantonato e la mia vita è lei, con tutte le sue cose. Io, di mio, non ho più nulla. A 28 anni, su sua imposizione, faccio un corso per balbuzienti a Rapallo. Una bellissima esperienza, di 10 giorni, fatta con tanti altri nella mia stessa condizione, dove non solo capisco che non sono l'unico, ma mi spiegano che se ne può uscire con un lungo lavoro fatto di due cose. Una tecnica per imparare a parlare. È una tecnica che prende spunto dal canto perché un balbuziente quando canta non balbetta. E un'altra, una tecnica psicologica che ti porti ad affrontare a viso aperto tutte le tue paure. Tornato a casa, nell'agosto del 1998, mi rendo conto che il rapporto con la mia ragazza comincia ad essere difficile. Io sono completamente in sua balia. Non decido niente, una vacanza, un'uscita con gli amici, neanche i vestiti che indosso. È lei a decidere tutto. E appena io provo ad alzare la testa, lei, a suon di parole, mi ricaccia indietro. Ma la mia voglia di riprendere il contatto con le cose del mio passato comincia a diventare forte. La mia prima ribellione succede nell'ottobre del 98. Con 2 mesi di anticipo, organizzo una gita con gli amici d'infanzia. Lei da subito mette le mani avanti, dice che non sa se potrà venire perché ha un esame all'università. Io prenoto comunque per tutti. Una settimana prima della partenza, lei comincia a mostrarsi insofferente. Io le dico che se non vuole venire mi dispiace, ma io vado comunque. La mattina della partenza sono da lei. La mia organizzazione è stata così attenta ai dettagli che non può attaccarsi a niente per convincermi a rinunciare. Ecco, lì comincia una litigata furiosa. Io per la prima volta ribatto a tutte le critiche, anzi, attacco. Le dico che non ha studiato per l'esame e che quindi, visti i 2 mesi di preavviso, non può rinunciare. La litigata non si ferma e io capisco dove mi vuole portare. Devo rinunciare alla gita per assecondare i suoi capricci. Ma io non mollo e anche quando ha ceduto scoppiando in lacrime, le rinnovo la decisione di partire, anche senza di lei. Il 18 dicembre del 1998 la mia ragazza praticamente ma non voleva farmi partire, voleva che io accettassi le cose che dicesse lei. Solo in quel caso avrebbe forse detto va bene vai, cioè la concessione doveva essere sempre da parte sua, e invece io questa soddisfazione non gliel'ho data. Era venerdì 18 dicembre 1998, quel giorno si è aperto un tappo che era chiuso da 20 anni. Comincio a partecipare ai discorsi, il no è no e il sì è sì. Affronto ogni cosa di petto, anche se non sempre con il piglio giusto. Però acquisto sicurezza. La parola si ferma sempre di meno. Non ho più timore di spiegare le mie ragioni giuste o sbagliate che siano. Affronto tutti gli impedimenti di qui sopra. Il telefono, la biglietteria. Con la consapevolezza che la parola uscirà e anche se ancora oggi l'emotività mi frena un pochino, le cose che devo dire, le dico. Insomma, a Rapallo l'avevano detto che si può guarire e io ci sono riuscito. Spero che questo possa essere un bel esempio per chi soffre di questo disturbo, che è davvero un incubo. Questa è la storia di un uomo salvato dalla parola. Di un uomo che è diventato, è tornato ad essere se stesso grazie alla parola. Dare un nome alle cose che abbiamo intorno e nominarle significa possederle. Noi usiamo le parole per esprimere noi stessi, quello che siamo o quello che vogliamo sembrare di essere. L'uomo di successo è un uomo affermato, affermo quindi sono, affermare, dire parole. Esprimersi significa sempre prendere una posizione, significa esserci. Io ho addirittura scelto il nome di questo programma facendo questo ragionamento più o meno. Io sono qui, voi siete qui. E non lo so quale sia il cortocircuito che può causare in un ragazzo delle medie un problema così grande. Però leggendo la storia di Fabio mi è venuto in mente un episodio della mia prima e unica vacanza studio ai tempi del liceo. Erano 3 settimane a Plymouth, in Cornovaglia, insieme a 4 compagni di scuola. È la prima volta che prendo l'aereo e tutto lascia supporre che sarà una vacanza memorabile. Ma dal momento che si parla di parole e di linguaggio, precisiamo che quella non è una vacanza, è una vacanza studio. Nell'estate del 1989 per me estate significa vacanza, primo aereo, libertà, insomma tutte parole che non vanno molto d'accordo con studio. L'inglese, nel senso di lingua, arriverà di conseguenza, mi auguro, e tornerò che sarò padrone di un'altra lingua. Arrivato a destinazione mi presentano la mia famiglia inglese e subito capisco che non sarà facile. Non comprendo una parola di quello che mi dicono i miei genitori inglesi. Dico il mio nome a occhi bassi e poi lascio parlare Giuliano Giudice, il mio compagno di liceo, che dividerà la stanza con me. Giudice ha la faccia piena di brufoli, ha l'attaccatura dei capelli da uomo di Cro-Magnon, porta delle camicine gialline a righe, non ha nessun senso dell'umorismo, ma soprattutto ha una madre americana. Lui è cresciuto a pane e inglese. Io abbozzo dei sorrisi di circostanza e mi metto in disparte. Passo le mie giornate come l'ombra di Giudice. Se parla lui, non ho bisogno di farlo io. Mi sembra tutto facile. Durante le lezioni mi metto di fianco a lui. Non imparo una parola, fa tutto lui. Il maestro madrelingua mi colpisce solo perché si cura il raffreddore sniffando una boccetta di ammoniaca e non certo per la sua solerzia nell'insegnarmi l'inglese. Le uniche parole che scambio sono a pranzo, quando per 3 settimane domando cheeseburger e coca media senza ghiaccio al commesso del fast food. Per tutto il resto parla Giudice per me. Io me ne sto zitto per tutto il tempo. Comincio a chiedergli se mi presta qualcuna delle sue camicie a righe, addirittura. La sera, in camera, inizio a ridere alle sue battute. Uno degli ultimi giorni, però, sul bus salgono 2 ragazze. Si siedono di fianco a noi. Una delle due sembra Patsy Kensit. Io la guardo, lei se ne accorge e mi dice ciao. Me lo dice in inglese, ovvio. Poi mi chiede quanti anni ho. Io sudo tutto quello che ho in corpo. Mi prende la tachicardia. Cerco Giudice. Lui risponde per me, ma la mia Patsy Kensit vuole parlare proprio con me. Ha pazienza, aspetta le mie risposte stentate, mi sorride. Io rimarrei su quell'autobus per tutta la vita, e invece scendo la mia fermata. Lei mi chiede se l'indomani alla stessa ora ci mangiamo un gelato insieme e io le dico di sì. E quella sera, da quella sera, le battute di Giudice tornano a sembrarmi quello che sono. Pessime. Le sue camicie tornano ad essere camicie gialline. E quando il padrone di casa rutta per farci ridere, lo anticipo, faccio finta di essere stato io, gli butto lì un «Sorry, it's the beer!» e tutti restano dapprima spiazzati e poi scoppiano a ridere. E lì realizzo che anche se ho solo 14 anni, in fondo mi fa schifo mangiare Coca-Cola e cheeseburger. La mia Patsy Kensit, che purtroppo non rivedrò più, mi ha costretto alla parola. e tornando a padroneggiare la parola, sono tornato ad essere me stesso. Scusate, volevo dire due parole su questo pezzo di Frankie High Energy, che quando l'ho sentito mi sono ritrovato a 16 anni, 16 no forse, sì, a 16 anni in un locale vicino a Biella, non so, c'era un locale famoso, se qualcuno è da quelle parti magari me lo scriva, 349-238-6666, c'era sto locale a Biella o fuori Biella dove ogni tanto c'erano dei concerti interessanti e improvvisamente ero lì, a Biella, con Davide Pirro e Federico Ambiel. 349-238-6666, ho tanti difetti nel parlato, mi scrivono, non si firma però, ma per hobby faccio radio e quando sono davanti a un microfono dimentico tutti i difetti. Qualcuno mi scrive, mio Dio, è la mia stessa storia, solo con la professoressa di italiano. E poi ancora, Camilla, mio marito ha iniziato a balbettare a 6 anni di colpo. Ha provato tutte le tecniche del mondo, ma non è mai servito a niente. Il problema più grosso è che la lettera che fa più fatica a pronunciare è la C. E io mi chiamo Camilla e nostra figlia Caterina. Ecco, magari Camilla, su di te non si poteva fare niente, però sulla figlia potete chiamarla Ambra piuttosto. E ancora, vorrei parlare, sono a balbuziente ma mi sto curando. 349-238-6666. E vorrei sentire Fabio, però partendo da questo messaggio di Marco che dice: accidenti, ho ricevuto la telefonata del capo proprio alla fine del racconto. Si sono lasciati alla fine oppure no? Pronto Fabio? Ciao Matteo. Ciao, e ciao a tutti i radioascoltatori. Come stai? Tutto bene, tu? Bene, bene. Senti, la domanda in realtà è retorica, perché tu adesso sei sposato e hai un figlio, giusto? O una figlia, non ricordo più. Un figlio, un bimbo. Un figlio, ma non con quella fidanzata là. No, no, con quella fidanzata lì. Senti, anche perché, Fabio, perdonami, però, un po', visto che hai condiviso così pienamente la tua storia, un po' era anche colpa tua che quella fosse così, dai. Cioè, gliele date proprio vinte tutte. Diciamo che mi rendo conto, diciamo, solo dopo mi sono reso conto che diciamo, ho sbagliato io. Cioè, avendo le date vinte così, così diciamo, tutte al 100%, d'improvviso non ho fatto più passare neanche una. Molti degli sbagli sono miei sicuramente. Immagino. Senti, Fabio, tu che cosa fai nella vita? Io faccio il piastrellista. Cioè, quindi metti giù le... piastrellista, metti giù le piastrelle. Metto giù le piastrelle, però non nelle case, io faccio i negozi. Cioè, i negozi che vendono le piastrelle hanno dei bagni che teniamo finti. Sì. Io posso le piastrelle nei bagni di questi negozi. Se praticamente sei un super piastrellista, sei il piastrellista dei piastrellisti. Il top dei piastrellisti. Senti, come va il lavoro? Che periodo è questo? Insomma, come per tutti, come per tutti. Brutto. Anche per le piastrelle. Anche per le piastrelle. Senti, invece, torniamo un attimo alla tua storia, perché sembra sorprendente, sentendoti parlare adesso, il pensiero che tu balbettassi fino a 20 anni fa? No, quando... Praticamente ho cominciato a migliorare da quando avevo 28 anni, cioè da quel fatidico giorno che ho scritto nella lettera. Sì, sì. Poi in realtà sono migliorato, diciamo, pian pianino. Quindi è una cosa lenta, no? Cioè, questa tecnica che si apprende è una cosa che va applicata in continuazione e nel tempo te ne dimentichi, no? Come funziona più o meno? Allora, diciamo che nel mio caso è stato, diciamo, le tecniche sono due. La cosa, quella della parola e quella di affrontare tutte quelle piccole cose che un balbuziente evita. Okay. Diciamo, io ho fatto più la seconda cosa, cioè cercare di scontrarmi con tutte quelle cose che una volta evitavo. Però la prima tecnica, quella sulla parola, come posso dire, ti spiega alcune cose, nel senso, come ho sentito nella telefonata precedente, ci sono delle lettere che i balbuzienti fanno fatica a dire. Cioè, sì, il messaggio di Camilla che ha proposto di... Esatto. Quindi in quel caso cosa fai? Le elimini? E sono quasi tutte le consonanti. Ah, beh, certo, che però sono tante, cavolo. Esatto. E allora questa tecnica spiega in poche parole di sì. Cosa, parlare con la bocca aperta e fare la cantilena. Ti potrei fare un piccolo esempio se vuoi. Guarda, grazie, ne sarei felice, sì. Adesso io ti dico, io mi chiamo Fabio Stacchiotti, con la cantilena e con la bocca aperta che tu non vedrai, okay, chiaramente. Ok. Io mi chiamo Fabio Stacchiotti. Ah, ok, ho canti. Ho usato la cantilena. Ah, ho capito. Esatto. Ho capito. e ha cercato di non calcare sulle consonanti. Ah, ho capito perfettamente, quindi questa tecnica è una tecnica legata al canto, perché come dicevi, quando canti il balbuziente non balbetta, esatto. E però la devi tradurre in parlato. Guarda, purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, Fabio, però più o meno ho capito. Questa cosa, mi dici velocemente, la tua vita è migliorata da quando tu parli meglio? È completamente cambiata. E quindi questa comunque è una tecnica che, visto che ci sono tantissime persone che stanno scrivendo al 349-238-6666, ha un nome questa tecnica, se uno volesse saperne qualcosa, come si chiama, dove la trova? Che vadano sul sito, io ho frequentato un corso a Villa Benia, che è a Rapallo. Va bene. Se vanno sul sito e si informano, è la cosa migliore. Io ho partecipato a quel tipo di corso e a me ha fatto veramente bene. Fabio, grazie ancora davvero per la storia e per la telefonata. In bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, Matteo, alla trasmissione, a tutti quanti. Ciao, grazie ancora. Ciao. Ci ha mandato una foto con tutta la famiglia, Fabio, anche conosciuto come il re dei piastrellistri, dei piastrellisti, il piastrellista dei piastrellisti. Fabio è con sua moglie, che non ricordo come si chiama, che è il bambino, non ricordo nemmeno lui come si chiama. Sono però tutte e due i grandi accovacciati e Fabio tiene il bimbo stretto tra le braccia. Secondo me sono in gita, perché hanno proprio l'aria... Sai come ci si veste quando si va in gita? Tipo col maglioncino legato in vita... Non vedo marsupi, però giusto perché non ce l'hanno, scarpe da ginnastica, vestiti comodi, ragazzi, che si va in gita. E infatti alle loro spalle c'è una specie di tempio greco, così a naso potrebbero essere ad Agrigento, forse, nella Valle dei Tempi, comunque Magna Grecia. Linguaggio. Facoltà dell'uomo di comunicare ed esprimersi per mezzo di suoni articolati, organizzati in parole, atte a individuare immagini e a distinguere rapporti secondo convenzioni implicite, varie nel tempo e nello spazio. Modo di esprimersi estremamente caratterizzato, riferibile all'uso particolare della comunicazione linguistica da parte di un autore o di categorie o gruppi di individui o di determinati ambienti sociali o professionali. Etimo dal francese antico langage, data secolo XIII. Ecco, quando dicevo ieri che ci sono delle novità nel programma, non intendevo dire solo che avremo una volta ogni tanto un ospite che appunto è un personaggio che noi cerchiamo di fare diventare una persona, cioè raccontiamo la loro storia come la storia di chiunque, così come è successo ieri con Lella Costa. Ce ne sono altre di novità. Una di queste è che quando c'è un argomento particolarmente interessante, ma anche particolarmente difficile da affrontare, ci piace sentire qualcuno che ne sappia più di noi, in sostanza, più di me sicuramente. E visto che come appunto diceva il dizionario di oggi si parla di linguaggio, si parla della lingua e delle parole e dell'importanza che ha la lingua, soprattutto per una persona come Fabio, che era un balbuziente e non lo è più. Noi ci siamo detti l'altro giorno, durante una riunione di redazione, io, Bonini e Margheritaina, chi è che possiamo chiamare semplicemente per parlare di linguaggio? E la nostra mente geniale è venuta fuori con un linguista. Ecco perché abbiamo chiesto di essere qui con noi oggi. A voi siete qui, a Giuseppe Antonelli, che è un linguista e insegna all'Università di Cassino. Professor Antonelli, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Grazie per essere qui, innanzitutto, professore. Nonostante la sua giovane età, io le do del lei, perché ai professori sono sempre stato abituato così, e quindi manteniamo questa formula. Perché giovane dipende dai punti di vista, insomma. Sì, certo, diciamo, c'è un vocione, però mi sembra comunque giovane, professore. e poi dal mio punto di vista, chiaramente, di 37enne. Via, torniamo al linguaggio, torniamo alla storia di Fabio. La prima domanda che mi viene in mente, che ha a che fare con la lingua e con il linguaggio, è quanto questo, cioè il linguaggio, limita o aumenta o comunque modifica la nostra percezione del mondo, delle cose che abbiamo intorno? Ma la prima cosa che mi viene in mente, sentendo la storia di Fabio, è un'etimologia, cioè l'etimologia della parola barbari, perché sì. Barbari viene da barbaroi, greco, e con cui i greci indicavano proprio quelli che secondo loro balbettavano, semplicemente perché non parlavano il greco. Qui chiaramente c'è un grande pregiudizio nei confronti dei popoli che parlano lingue diverse, ma è significativo quanto questo elemento della balbuzie possa essere poi giudicato in una certa maniera. Il barbaro poi si è portato dietro tratti negativi ben diversi da quelli del non saper parlare in maniera sciolta. Quindi in sé è già un'accezione negativa il fatto di non sapere parlare, il fatto di essere un balbuziente, cioè è culturalmente considerata squalificante. Diciamo, proprio nella percezione collettiva, no? E al contrario possiamo dire che gran parte della cultura occidentale, della cultura diciamo cristiana o cristiana in senso lato, si basa sulla centralità della parola, perché nel Vangelo di Giovanni dice in principio era, e poi qui c'è tutta una disquisizione nella traduzione, in greco è logos, poi in latino è stato reso con verbum e con sermo, ma insomma qualcosa che è anche la parola, se non solo la parola, il discorso, la capacità di argomentare, il ragionamento, ma insomma al centro c'è sempre l'elemento della lingua, della parola. Che poi io, professore, non credo sia lei la persona adatta a cui chiederlo, dovrei chiederlo forse a un prete, ma l'idea di questa storia del al principio era il verbo, io non è che l'abbia mai capita veramente bene. Cioè viene prima il soggetto. Questo poteva essere un'alternativa. No, è però cioè che è la parola che genera tutto in sostanza. Sì, è l'identificazione della divinità con la parola, e in questo senso potremmo forzare un po' i termini e dire che la parola è ciò che rende l'uomo simile a Dio nel momento in cui noi nominiamo le cose, ne prendiamo possesso. Io lo vedo su mia figlia che ha compiuto 2 anni l'altro giorno. Capire una parola e riuscire a pronunciarla in maniera sia pure approssimativa è prendere possesso di quella cosa, ce l'ho, mi manca, e questo si vede in maniera straordinaria nei bambini. E poi lei dice, a proposito di preti, c'era un prete che si chiamava Don Milani, che qualche anno fa, siamo diciamo negli anni 70 del Novecento, insisteva molto sulla lingua come qualcosa che ci rende uguali, la lingua come una garanzia di democrazia, ma anche di uguaglianza nel senso evangelico. Lui diceva i poveri diventeranno uguali ai ricchi solo quando conosceranno tutte le parole che conoscono i ricchi. E in questo senso, wow, di nuovo, la parola, lui diceva proprio, è la chiave di volta, quella che rende appunto l'uomo propriamente detto degno di essere tale. Certo, ma quindi, professore, in sostanza parlare meglio, e non solo per quanto riguarda un balbuziente, ma in assoluto, avere una maggiore capacità lessicale, avere un vocabolario più ampio, aiuta a vivere meglio? Secondo me sì, aiuta a essere più forti, più consapevoli, a rendere le proprie emozioni attraverso le sfumature, i sinonimi, a tarare un sinonimo più o meno colto, più o meno volgare, a dire veramente quello che si prova e quello che si cerca di spiegare. E d'altronde nel racconto del nostro amico c'era proprio questo elemento: finalmente posso dire di no e posso spiegare perché dico di no, e posso dire di sì e spiegare perché dico di sì. Certo, cioè, l'unica cosa che veramente azzera la parola è l'emozione, quella che ci frastorna. Ecco, infatti, proprio a questo riguardo, quanto la nostra vita emotiva, cioè la nostra vita o emozionale, condiziona il nostro linguaggio? Perché in realtà ognuno di noi, anche quelli che non balbettano e non hanno mai avuto il problema di balbuzie, davanti ai professori a 16 anni o magari anche di più, si impuntano, non riescono a parlare bene, no? Cioè, quindi l'aspetto emozionale ha una componente molto importante nella capacità di usare il linguaggio. Certo, forse qui ci vorrebbe uno psicolinguista, però sicuramente esistono gli psicolinguisti anche? Esiste una branca della linguistica che si chiama psicolinguistica, che studia l'apprendimento, i difetti di apprendimento, i difetti di parola e in generale tutti i processi cerebrali, e quindi anche da un punto di vista proprio diciamo scientifico che portano a certe realizzazioni verbali. Okay. E nella fattispecie io studio invece cose un po' più terra-terra, insomma la storia della lingua italiana, e posso citare però qui 2 elementi che secondo me rientrano, vede che poi anch'io quando ci penso metto un pochino, rientrano nel ragionamento che stiamo facendo insieme. E il primo è quello per cui la letteratura, per esempio, ha sempre usato il mancare la parola come il massimo della metafora d'effetto. Cioè, quando Dante deve descrivere l'arrivo in paradiso, non dice che non ha più parole. Chiaro. Trasumanare è qualcosa che non si può dire con le parole. Ligabue dice la stessa cosa. Ho perso le parole. Quando è che perde le parole? Ligabue Luciano, giusto? Proprio lui, insomma. Quando è che lo dice? Perché? Perché sì, perché davanti alla donna amata ce l'aveva fino a qualche momento prima, e poi in quel momento invece lui pure, che è un cantautore, perde le parole. Perché lì l'emozione in questo senso ci ammutolisce, ma forse è anche bello ogni tanto, no? Riuscire a rimanere senza parole. A chi lo dice, professore? A uno che parla interrottamente per 45 minuti al giorno. La devo salutare. L'ultima cosa che voglio chiederle, ed è una curiosità, qual è la sua parola preferita? Qual è la parola preferita di un linguista? Ah no, il linguista le ama tutte ad una, ogni parola del vocabolario, con qualche preferenza per quelle che sono più bistrattate, meno utilizzate, un po' impolverate, ma veramente, insomma, ci guadagno da vivere e sono ben contento di questo, e penso sia un grande privilegio poter lavorare con le parole. E continuare a studiare le parole. Al volo, in media, un italiano, una persona normale, quante parole conosce e usa? Il problema è quante dovrebbe conoscerne. Ci sono degli studi che sono stati fatti un po' polemicamente negli Stati Uniti sulla generazione delle 20 parole, cioè si insiste molto sul fatto che gli adolescenti stanno impoverendo il proprio lessico, e questo potrebbe in prospettiva essere un guaio, perché li renderà più deboli di fronte agli altri. Professore, credo che non abbiamo mai detto in questo programma, compresa la stagione passata, non abbiamo mai avuto un intervento così alto, quindi io la ringrazio, adesso torno a dire le stupidaggini che dico di solito. Grazie ancora al professor Giuseppe Antonelli. Grazie. Grazie a lei, arrivederci. Buona giornata. 349-238-6666, che poi peraltro il professor Giuseppe Antonelli è l'unico linguista che cita Ligabue, quindi giusto per mantenere, insomma, non troppo alto, appunto, non è che diventiamo improvvisamente Nicoletti o Fahrenheit. Il locale dove sentì Frankie High Energy per la prima volta a 16 anni, no, però erano più di 16 perché qualcuno doveva avere la patente, quindi probabilmente ce l'aveva Federico, non Davide, 18 anni, il locale era il Babilonia a Ponderano, vicino a Biella. Sì, era esattamente quello che era lì. Ciao Matteo, mi scrive Lorenzo, quando parli con una persona dall'accento forte ti viene da prendere il suo accento. Questo un po' è vero, mi capita. Oggi stai balbettando più del solito. Ma guarda, è giusta la tua affermazione, più del solito, nel senso che già lo faccio abitualmente. E poi ancora, ciao Matteo, quando un giorno supererò la mia sociofobia ti scriverò anch'io la storia della mia vita. Saluti, Maria. Maria, allora noi la aspettiamo. Grazie nel frattempo a Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Ina e grazie a Mauro Pescio. La storia di oggi era la storia di Fabio e anche lui da oggi è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Maurizio, sono di Lecce. La storia che sentirete domani è la mia e parla dell'emozione che ho vissuto rivedendo il volto di una persona. Questa è la mia storia ed io sono qui.